Sceglierei di fare questa meditazione pensando che stiamo nel mese di novembre e il mese di novembre è cominciato con una festa molto importante per la Chiesa e molto importante per noi, che è la festa di tutti i santi e che richiama a noi in modo particolare che abbiamo la convinzione che tutti sono chiamati alla santità, anzi. E sappiamo che il messaggio dell'Opus Dei è proprio questo, no? Diffondere ovunque, no? Tra persone di tutti gli ambienti, di tutte le condizioni sociali, senza distinzioni di nessun tipo, il messaggio della chiamata universale alla santità. Allora, io quando penso alla santità, mi viene in mente sempre Santa Maria, la nostra Madre del Cielo, che è santa, noi la chiamiamo santa, allo stesso tempo è nostra madre e quindi è molto vicina a noi, anzi è mamma, cioè chi più vicina a noi di una mamma? Vicina, somigliante, cioè ci ha generato lei. E nello stesso tempo noi ci immaginiamo che sia una persona normale, normale, no? E in effetti io rileggendo quello che leggiamo nel Vangelo di San Luca, al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria e entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Cioè, noi vediamo che la Bibbia, il Vangelo, non dice è andato l'angelo da una persona speciale, da una persona straordinaria, da una persona che brillava per tutte le sue virtù. Noi lo sappiamo dopo che, senz'altro, Maria diciamo che è tutta santa, è tutta pura. L'angelo stesso la chiama piena di grazia, però. Lei appare, diciamo, anche a se stessa, e poi a Giuseppe, e poi ai suoi genitori, e poi ai suoi compaesani, come una ragazza normale, come una ragazza qualunque. E quindi ci possiamo specchiare in lei. Quindi noi ci possiamo sentire i suoi figli e specchiarci in lei, no? Guardarla negli occhi e pensare. Sono tuo figlio. E poi la Chiesa evidentemente ha ragionato sulla rivelazione ed è arrivata a definire la Madonna piena di grazia, e senza peccato originale, preservata, no? Senza suoi meriti, ma ci è arrivata un secolo e rotti fa. Però allora. Per Giuseppe, per i suoi genitori, per i suoi amici, per le sue amiche, lei era sicuramente una persona splendida, ma normale, normale. E questo è, penso che sia quello che il Signore vuole farci capire, anche con la festa di tutti i santi e anche con il messaggio dell'Opus Dei, no? Qualche anno fa il cardinale Ratzinger, quando parlava di San José María e lo pubblicò quando ci fu la sua beatificazione, la sua canonizzazione, diceva proprio questo, no? Che si metteva anche dentro a quelli che si sono fatti un'idea della santità come una realtà lontana, solo per qualcuno speciale, solo forse addirittura lui diceva, forse perché siamo abituati che i processi nella Chiesa, quando si valuta la vita di una persona, bisogna vedere l'eroicità delle virtù, allora questo ci ha portato a pensare che i santi sono persone speciali, persone solo per qualcuno, è questa chiamata ad essere come dice il Signore dell'Antico Testamento, siate santi come io sono santo. E invece diceva che nella razza non è così. Il santo è una persona normale, una persona che può avere anche molti difetti. Solo che cosa fa? Che cosa diceva lui? Che lascia operare Dio nella sua vita, lascia che Dio agisca nella sua vita, lascia che Dio entri. E in effetti io vedevo nella storia di Maria che l'angelo entra da lei in qualche misura senza chiederle il permesso, però lei lo lascia entrare. Anche mi colpisce leggendo questo perché il Vangelo dice, entrando da lei disse, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata. Quindi lei si turba alle parole, non si turba per il fatto che un angelo si presenta da lei, si turba alle parole che dice, che appunto che ipotizzano una chiamata molto grande. Quindi Maria è molto normale, allo stesso tempo abituata a parlare con Dio e quindi è abituata, possiamo dire così, al mondo soprannaturale. Tu Maria lasci che Dio entri nella tua vita, lo lasci fare. Lo lasci fare. E va più in questa linea la santità. Poi c'è ovviamente una corrispondenza, ma lo lasci fare. Lo lasci fare. E infatti quell'articolo di Cardinal Ratzinger si intitolava Lasciar operare Dio, e lasciar operare Dio. Cioè, dice, scriva, ha lasciato operare Dio dentro di sé. E quindi è arrivato a parlare con Dio come con un amico, come fa Mosè. Parlare con Dio come con un amico. Parlare con Dio come con un amico. La Madonna rimase molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo, perché quelle parole dell'angelo, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, forse lei si ricordava che erano nel profeta Sofonia parole dette a Gerusalemme, rallegrati figlia di Sion. E traducendo letteralmente dall'ebraico, il Signore è nelle tue viscere. Cosa che probabilmente i contemporanei consideravano in senso figurato, Gerusalemme, c'è il Tempio, Dio ha una sua presenza lì, come se fosse Gerusalemme una donna, e il Tempio è il suo seno, lì è presente Dio, no? Ma Maria, sentendo queste parole pronunciate da un angelo, non sappiamo in che modo si accorge che è un angelo, perché non lo dice lei, no? Non lo racconta. Vedete anche in questo la sua passione per la normalità, no? La passione di Maria per la normalità. Non lo racconta, queste parole dette da un angelo a lei, fanciulla, il Signore è nel tuo grembo. Indubbiamente la turba, no? Dico, questo che cosa vuol dire? Cioè, mi sta dicendo le parole che il profeta ha detto a Gerusalemme, quindi lei sapeva che ci sarebbe stata una donna prescelta per essere la madre del Messia, insomma, c'è di che turbarsi. Fra l'altro è molto bello vedere che la nostra madre, che noi chiamiamo Santa Maria, è una donna piena di tutti i sentimenti, perché il Vangelo dice che lei si turba. Poi dice che lei si rallegra, poi lei canta il Magnificat, poi lei si angoscia quando perde Gesù, poi lei si stupisce, non capisce Gesù, fra l'altro, quando lui si perde e gli risponde in quel modo, lei dice boh. Però conserva queste cose nel suo cuore per riflettere, chissà che cosa vuole dire il Signore nella mia vita con questo che accade, no? E lei è anche tranquilla, anche se probabilmente soffre di vedere queste cose che accadono e lei non sa perché, non sa che cosa succederà, non sa quando l'angelo dice a Giuseppe vai, scappi in Egitto, prendi la madre e il suo bambino e scappi in Egitto e il bambino e sua madre, perché, che cosa succederà, come mai, anche se lei probabilmente, anzi sicuramente, mantiene tutto questo nel, una fiducia nel disegno di Dio, nel disegno di Dio, di portare a compimento la sua storia della salvezza attraverso strade imprevedibili e impreviste, anche se poi dopo, forse anche lei è riuscita a riflettere, come poi i primi cristiani, sul fatto che si compiva la scrittura, no? Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. E qualcosa di questo tipo avviene anche per te e per me. Per noi, nella nostra vita, accadono cose che non pensiamo, che non aspettiamo, che non prevediamo, e che ci sorprendono, che ci turbano, che ci rallegrano, che ci stupiscono. La Madonna si stupisce insieme con Giuseppe delle cose che arrivino ai pastori, no? E che dicano che sono apparsi gli angeli a loro e che poi, e che Simeone dica quelle cose lì che dice, una spada di 7 tagli ti passerà l'anima, e si stupivano di queste cose. Poi loda Dio perché ha guardato la piccolezza della sua serva, e lei è una che ha lasciato, è una nostra madre che ha lasciato operare Dio dentro di lei, non anche il privilegio che gli ha dato il Signore di essere priva di peccato originale nel momento stesso del suo concepimento, come insomma festeggiamo l'8 dicembre, è una cosa che non ha scelto lei. L'ha ricevuta, l'ha ricevuta. E noi anche sulla base dell'insegnamento della Chiesa, dell'insegnamento dei pontefici ultimi, tutti hanno insistito su questo aspetto della priorità della grazia, cioè viene prima il Signore, è Lui che ci ha scelto, è Lui che, in modo immeritato, è Lui che ci santifica, è Lui che ci purifica, eh? È Lui che ci purifica. Il libro che non ho portato, ma ve lo posso citare a memoria, un po' diciamo come contenuti, non come letteralità, è sempre di Benedetto XVI, il secondo libro su Gesù, che è tutto su il triduo sacro, cioè giovedì, venerdì santo, la resurrezione, quindi l'Eucaristia, tutto quello che accade in quei giorni. E a un certo punto mette l'attenzione su delle parole che dice che nel Vangelo Gesù dice ai suoi discepoli, no? E parla molto della loro purezza, no? Nell'ultima cena, Vangelo di San Giovanni, per esempio, vado a leggere quello che il Vangelo dice. Vi ricordate quando Gesù comincia così, comincia con la scena della lavanda dei piedi, no? E Gesù lava i piedi agli apostoli e Pietro protesta, dice guarda che se non ti lavo non avrai parte con me, allora tutto, lavami anche non solo i piedi ma le mani, il capo. E Gesù dice, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo dice, non tutti siete puri. Ma queste parole Gesù cita in vari punti di questa ultima cena narrata da San Giovanni. Ecco, mi arriva, grazie, il testo che ho citato, e che così posso leggere anche direttamente e non solo a memoria. Poi più avanti nella preghiera sacerdotale Gesù dice, cioè nel capitolo 17, questo è l'altro 17, San Giovanni dice: voi siete puri per la parola che vi ho annunziato. No? E allora Papa Benedetto, da grande teologo, esperto di tanti aspetti della scrittura, fa quattro paginette, pagina 69-73 di questo secondo volume di Gesù di Nazareth, in cui approfondisce questa tematica. Che cosa significa essere puri per il Vangelo? Come lui dice, noi a un certo punto abbiamo ristretto, lui dice che è la devozione dell'Ottocento, del 1800, che ha ristretto il concetto di purezza all'ambito sessuale, ma anche con un certo danno, no? Perché inquinandolo così anche nuovamente col sospetto nei confronti della sfera materiale e del corpo. Invece il concetto della purezza nel Nuovo Testamento è molto più grande, è molto più grande. E ha per protagonista Dio. Mentre noi quando pensiamo alla purezza nostra tendiamo a dire io devo in qualche modo sforzarmi per, no? Invece nel Nuovo Testamento è Dio che ci purifica grazie alla fede che ci dona, grazie alla carità, al suo amore, grazie alla sua parola. E il Papa dice che in tutta la... ecco, nel brano della lavanda dei piedi la parola puro ricorre 3 volte, con ciò Giovanni riprende un concetto fondamentale della tradizione dell'Antico Testamento, come pure del mondo delle religioni in genere. Per poter comparire davanti a Dio, entrare in comunione con Dio, l'uomo deve essere puro, ma quanto più entra nella luce, tanto più si sente sporco e bisognoso di purificazione. Per questo le religioni hanno creato sistemi di purificazione con lo scopo di dare all'uomo la possibilità dell'accesso a Dio. Le vasche di purificazione, no? Pensate, oppure tutti i riti di purificazione che c'erano nel Tempio. E nell'Antico Testamento spiega il Papa che era tutto cultuale, no? Nel giudaismo osservante, questo accade un po' in tutte le religioni, nelle norme cultuali di tutte le religioni i precetti di purificazione hanno un ruolo importante, dando all'uomo un'idea della santità di Dio come anche della propria oscurità, da cui deve essere liberato per potersi avvicinare a Dio. Nel giudaismo osservante dei tempi di Gesù, il sistema delle purificazioni cultuali dominava tutta la vita. Nel capitolo 7 del Vangelo di Marco incontriamo la fondamentale presa di posizione di Gesù di fronte a questo concetto di purezza cultuale realizzata mediante adempimenti rituali. Paolo nelle sue lettere ha dovuto ripetutamente affrontare tale questione, cerca la purezza davanti a Dio. E Gesù dice: ma guardate che non è quello che mangiate che vi fa rendere, che vi rende impuri, perché l'impurità nasce dal cuore, da lì nascono tutti i tipi di omicidi, adulteri, tutti i tipi di negatività, no? Di peccati, dal cuore dell'uomo. E dal cuore dell'uomo, quindi non è da qualcosa che facciamo, no? Qualcosa di esteriore. Questa è la svolta radicale, no? Purezza e impurità si realizzano nel cuore dell'uomo. Hanno, come sapete, un concetto molto più ampio, non dobbiamo pensare a quello a cui noi diamo questo nome, l'aspetto legato alla sessualità, no, è un aspetto globale della vita dell'uomo, no? Davanti a Dio, l'uomo davanti a Dio. Ma sorge subito la domanda: come diventa puro il cuore? Chi sono gli uomini dal cuore puro che possono vedere Dio? Vi ricordate? Leggevamo il 1 novembre nel Vangelo della Messa dei Santi: beati, beati, beati i poveri, beati chi ha fame e sete della giustizia, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Chi sono? L'esegesi liberale ha detto che Gesù avrebbe sostituito la concezione rituale della purità con quella morale. Al posto del culto e del suo mondo subentrerebbe la morale. Allora il cristianesimo sarebbe essenzialmente una morale, una specie di riarmo etico, ma con ciò non si rende giustizia alla novità del Nuovo Testamento. Non è così. Non è perché poi tutto questo renderebbe sempre noi, come dire, protagonisti della nostra santità, no? Protagonisti della nostra purezza, siamo noi che, invece no, evidentemente noi dobbiamo collaborare all'azione di lasciare che Lui operi noi, ma è sempre Lui che agisce. La vera novità si intravede quando negli Atti degli Apostoli Pietro prende posizione di fronte all'obiezione dei farisei convertiti alla fede in Cristo, che chiedono di circoncidere i cristiani provenienti dal paganesimo e di ordinare loro di osservare la legge di Mosè, che conteneva tutte quelle attenzioni a non toccare il sangue, attenzione a non toccare i cadaveri, attenzione a non mangiare questo, attenzione a non fare quell'altro, no? E se uno ha fatto così, quanti giorni deve passare? Tutto questo per noi cattolici, grazie a Dio, è superato, spazzato via dalle parole di Gesù e anche da quello che hanno capito gli apostoli dopo, no? Grazie allo Spirito Santo. Pietro replica: Dio stesso ha preso la decisione che i pagani ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. Non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. La fede purifica il cuore, dice il Papa Benedetto. Essa deriva dal volgersi di Dio verso l'uomo. Vedete? Noi penseremmo dal volgersi dell'uomo verso Dio, che uno, invece no, è il volgersi di Dio verso l'uomo. Non è semplicemente una decisione autonoma degli uomini. La fede nasce perché le persone vengono toccate interiormente dallo Spirito di Dio, che apre il loro cuore e lo purifica. È molto interessante questo, no? Quindi, infatti anche noi possiamo dire: ma chi mi ha fatto cristiano? Il Signore. Chi mi ha cercato con una pecorella smaita? Chi mi ha battezzato? Il Signore. Nella fede, per la maggioranza di noi, dei nostri genitori, nella fede della Chiesa, ma è Dio che ha preso l'iniziativa, così come ha preso l'iniziativa di metterci al mondo. Così chi mi ha cercato per dirmi che mi ama, per dirmi per darmi anche un compito nella Chiesa, un talento. Vedete, oggi leggevamo nella Messa la parabola dei talenti, nel rito romano, e lì si nota che i talenti non sono le qualità che abbiamo noi, ma sono dei compiti che il Signore ci dà. Infatti dice la parabola: diede a ciascuno il Signore 5, 2, un talento a secondo della capacità di ciascuno. Quindi le capacità sono un'altra cosa, e noi invece tendiamo nel linguaggio comune a identificare i talenti con le capacità. Sono degli incarichi che ci dà, dei compiti, delle opportunità che ci dà, no? E in sostanza anche lì quell'uomo di cui parla la parabola, che l'ha sotterrato, è perché ha avuto paura di Dio, è perché ha avuto, non ha vissuto la filiazione divina, non ha capito che il Signore lo amava, e che tutti quei talenti erano possibilità di amare, capacità di amare. Pensate ad una persona che conoscete, un'amica, un amico, una circostanza in cui state, il luogo di lavoro, il luogo di studio, la famiglia, un incarico apostolico, qualunque cosa avete voi fra le mani. Questi sono i talenti da far fruttare, e da far fruttare senza paura, senza la paura di Dio soprattutto, sapendo che il Signore ci dà una fiducia straordinaria, dice: ti do questo, fai, lanciati, non aver paura di sbagliare. Perché se anche se sbagli non c'è nessun problema. E se il concetto di santità che ci dava San José Maria è anche questo, che non è fatto da non sbagliare mai, addirittura non di non peccare mai, no, il giusto pecca 7 volte, cadiamo, ci rialziamo. E in questo cominciare quasi consiste più il avvicinarsi a Dio, cioè il fare dal figlio al prodigo molte volte al giorno, come lui diceva che era il suo compito, vuol dire fra l'altro ricevere molte volte al giorno l'abbraccio di Gesù, perché il figlio del prodigo si guadagna un abbraccio del padre, no? Quando lo va a trovare a casa. E quindi questa, la santità è di Dio, l'amore è di Dio, in fondo la santità consiste nell'amore. L'amore di Dio che è riversato nei nostri cuori e noi lo riceviamo pieni di stupore come Maria e come Giuseppe, stupiti da questa cosa che non ci immaginavamo e cerchiamo di riversarlo negli altri. Questa è... E la fede nasce perché le persone vengono toccate interiormente dallo Spirito di Dio che apre il loro cuore e lo purifica, è lo Spirito di Dio che purifica il cuore. No? In questo per esempio il battesimo è esemplare, il battesimo anche quando uno è adulto e lo riceve da adulto lo purifica in quanto tale, no? Cioè è il battesimo che ti rende totalmente puro, cioè è Dio che ti purifica che totalmente, no? Giovanni ha ripreso e approfondito questo grande tema della purificazione, accennato solo brevemente nel discorso di Pietro e nel racconto della lavanda dei piedi, sotto la parola chiave di santificazione. Nella preghiera sacerdotale di Gesù dice: voi siete già puri per la parola che vi ho annunciato. Discorso sulla vite ai suoi discepoli. No? E la sua parola che penetra in loro, trasforma il pensiero, la volontà, il cuore, lo apre in modo che diventi un cuore che vede. E Gesù prega per noi, dice consacrali nella verità, cioè quindi anche la verità ci purifica anche ed è un'azione di Dio, che Gesù chiede a Dio di santificarci, no? La verità è ora il lavacro che rende gli uomini capaci di Dio, questo Gesù ci fa capire in queste parole. In essa l'uomo deve essere immerso affinché sia liberato dallo sporco che lo separa da Dio, la verità, no? La parola di Dio, la fede, l'amore. Al riguardo non dobbiamo dimenticare che Giovanni non prende in considerazione un concetto astratto di verità. Egli sa che Gesù è la verità in persona, per cui noi ci immergiamo in Gesù, che è il significato del battesimo quando si fa da adulti nella vasca, no? Si faceva una volta, no? Ci si immergeva totalmente in Cristo, ci si rivestiva, anche adesso avviene il battesimo, anche se lo si versa sul capo, no? L'acqua, rivestitevi di Cristo, cioè noi siamo immersi, Gesù, nella tua vita, no? Viviamo la tua vita e tu vivi la tua vita dentro di noi. E tu vivi la tua vita dentro di noi e appunto poi dice invece questa visione è molto grande, molto profonda, molto bella perché radicalmente dipende da Dio e non da noi, se non dal nostro lasciare che Lui faccia dentro di noi. Se non ti lavo non avrai parte con me, quindi lasciati lavare, no? Lasciati purificare da Dio, lasciati immergere, no? E vi scongiuro, fratelli, riconciliatevi con Dio, dice San Paolo, no? E poi dice, e lo paragona ai neoplatonici, Plotino, che cercano mediante riti una graduale ascesa dell'uomo, no? E verso le altezze di Dio, da una parte mediante riti, queste della religione antica, invece nella filosofia graduale ascesa dell'uomo verso le altezze di Dio, in tal modo l'uomo si purifica dalla componente materiale, diventa spirituale, quindi pure, ma questo non è cristianesimo, se noi pensassimo che il nostro corpo è qualcosa di negativo, qualcosa tutta la dimensione materiale, questo no. San José Maria in Amare il mondo appassionatamente ci dice anzi la nostra epoca ha bisogno di recuperare il senso elevato della materia, dobbiamo vivere un materialismo cristiano, dobbiamo sapere che la vita è fatta di anima e corpo uniti e il Papa dice appunto questo, la devozione dell'Ottocento ha poi di nuovo reso unilaterale il concetto di purezza, l'ha ridotto sempre di più alla questione dell'ordine nell'ambito sessuale, inquinandolo così anche nuovamente col sospetto nei confronti della sfera materiale del corpo. E nella diffusa aspirazione dell'umanità alla purezza, il Vangelo di Giovanni, Gesù stesso, ci indica la via, Egli, che è Dio, e insieme uomo, ci rende capaci di Dio. Lo stare nel suo corpo, l'essere penetrati dalla sua presenza è la cosa essenziale. La cosa essenziale è questa. Senz'altro noi ti riceviamo nell'Eucaristia, ti riceviamo nel sacramento della penitenza, nella nostra orazione, e ci mettiamo a confronto con te, e poi ti troviamo nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle e ti amiamo lì, ti serviamo anche nei più poveri, nei più, quelli che hanno più bisogno. E allora tutte quelle cose che ci vengono in mente di non essere adatti ad un cammino di santità, non essere idonei e di doverlo fare a forza così di braccia o di scoraggiarci perché non riusciamo, tutto questo non fa parte del Vangelo. Pensate anche alla parola dei talenti che leggevamo stamattina. 5, 2, 1, cioè gli incarichi sono diversi, no? 10, 5, 1. Per Gesù non è questo un problema, cioè a qualcuno secondo le sue capacità gli dà 10 da fare, quell'altro gli dà solo 1. L'importante è fare bene quella piccola cosa che siamo in grado, che ci è stata affidata, quel piccolo incarico, quella persona che il Signore ci affida, facendoci incontrare a volte anche così, in modo improvviso, no? Su un autobus, al lavoro, e ci affida una persona a cui voler bene, da aiutare, da curare. E così come quando dice il seme che cade nella terra buona dà frutto 30, 60, 100, ma è normale che sia così. Non è un problema che sia così. E se uno dice io do frutto il 30 e va bene, che problema c'è? No? E si vede che puoi dare 30, no? Il Signore lo sa prima di te, meglio di te, prima di me, meglio di me. E quindi, e la Madonna cosa ha fatto di straordinario nella sua vita? Una vita molto normale, poi ha seguito Gesù da vicino, è stata sicuramente eroica, è stata santa, proprio nel lasciare che si entrasse nella sua vita e nel seguire il suo disegno di redenzione, che non corrispondeva probabilmente tanto spesso ai suoi gusti, ai suoi desideri, no? E questa croce di Gesù l'ha fatta soffrire molto, anche se lei era consapevole che ci sarebbe stata la risurrezione. Questo dava luce alla sua Pasqua, no? E allora a lei chiediamo di poter avere questa visione del Vangelo, questa visione che il Papa Benedetto ci porge, Papa Francesco continuamente la riprende, nell'Evangelii Gaudium, per esempio, quella che San José Maria ci porge, questa visione della santità, in cui è il Signore che fa le cose e noi corrispondiamo a Lui. Noi chiediamo alla Madonna che ci ricordi che è così e quindi che questo ci dia continuamente una grande serenità, una grande positività, una grande sensazione da figli, che nostro padre, papà lo chiamiamo, nostro padre Dio, papà, ci vuole bene, non ci abbandona mai, ci aspetta sempre e ci dona ogni giorno, tante volte al giorno, l'abbraccio che ci aiuta a ricominciare.